primo fra tutti i rimedi per me è la confessione. Io il confessore non vado a cercarlo in capo al mondo, perché allora come farei ad andarci così, alla portata di mano. Ma guardate che bell'insegnamento che ho ricevuto da ragazzo, e lo comunico anche a voi, che può darsi che vi serva. Io vivevo in canonica con lo zio Don Francesco a Gargagnago, dai 3 anni e mezzo, 4, fino all'adolescenza piena. E ammesso alla prima comunione, mi faceva specie andare a confessarmi dallo zio prete, perché poi a tavola mangiavo con lui, vivevo con lui in canonica, andare a contare le mie birichinate, e poi chissà cosa mi avrebbe fatto poi. E allora un giorno, non potendo sopportare questa situazione, visto che lo zio a tavola era su di Geri, quel giorno lì era scherzoso, dico: zio prete, zio Don Francesco, quando la gente viene a confessarsi da te, te le ricordi dopo i peccati? Quando vieni fuori dal confessionario, te li ricordi i peccati? E mi ha risposto: oh minchione che non sei altro, se i peccati fossero cose belle, tuo zio prete li ricorderebbe tutti, ma i peccati sono cose brutte e tuo zio prete le dimentica immediatamente. È proprio vero quello che dici? Oh, io non ho mai detto bugie. Io ho cavato un respiro. E il sabato dopo dovevo andarmi a confessare, perché tutti i sabati la zia Elisa mandava a fare la confessione. E per andare nel confessionario dello zio c'erano 2 scalini. Gli ho fatti un balzo, perché dicevo tra me: non se ne ricorda più dopo i peccati. Anche se mangio insieme con lui a tavola, non tira mica fuori il discorso dei peccati, perché ha detto che i peccati lui li dimentica tutti. Essendo cose brutte, tristi, è meglio dimenticarli. Io da quella volta non sono andato lontano a cercare il mio confessore, dallo zio, e quando non c'era lo zio, c'era Don Emilio Fabbro, il direttore di una casa di corrigendi, che aveva il frontespizio sulla piazza di Gargagnago. E attualmente io stamattina mi sono confessato da uno dei miei giovani preti. Ma no, lontano, perché lontano? Qualcuno per fare la confessione va a Forlimpopoli. E giunta a Forlimpopoli magari il tuo confessore non c'è. Ti tocca tornare indietro col tuo bagaglio. No, no, no, no, vicino, vicino. E poi se venissi a mancare, supponete che nel cuore della notte un infarto e io venga a mancare. E chi vanno a cercarmi? Il confessore di Forlimpopoli? Ma il prete più vicino! E se io ero abituato a confessarmi dal sacerdote più vicino, non mi costerà niente confessarmi anche in quell'ora così importante e solenne della vita. Alla portata di mano il confessore. Non andatelo a cercare, non so, a quel convento. Si può, oggettivamente parlando, si può andare anche in capo al mondo a confessarsi. Basta che sia un sacerdote che ha le facoltà di confessare. Ma il tempo di andare in capo al mondo l'abbiamo? Ah, io, il prete più vicino. Ma poi vivo insieme con lui, mangio con lui, tratto gli affari con lui, certo, ma i peccati, basta, sono sepolti e sepolti rimangono. Sono come pietre gettate in fondo al lago, in fondo al mare, non vengono più su quelle pietre. È una parola biblica, è Dio che dice così, che Dio getta i nostri peccati in fondo al mare quando glieli abbiamo confessati, pentiti. E il sacerdote, anch'io prima di essere fatto prete, mi hanno spiegato i miei professori di teologia che il sacerdote che torna indietro con la mente o con la fantasia a ripensare ai peccati sentiti in confessione pecca, pecca contro la carità, contro il precetto, il comandamento della carità. Non deve mai pensare ai peccati sentiti, non solo non parlarne, ma anche non pensarci mai. Ti abbiano detto di tutto, questi peccati, basta, sono senza volto, senza nome, senza cognome, perché sul sacerdote, confessore, pesa il sigillo più grande che esiste al mondo, il silenzio a costo di morire martiri. E non son pochi i sacerdoti martiri per aver taciuto i peccati sentiti in confessione, ma ne manco col pensiero il sacerdote deve andare a rinvancare i peccati di un penitente che si è confidato, gli ha chiesto perdono. Questo sappiatelo, perché non vi sia difficoltà in voi a confessarvi, ma il confessarvi sia la cosa più bella, come è bello farsi un bagno, si viene fuori dalla doccia, disinvolti, si sta meglio, ecco, così, e ancora di più, quando noi ci confessiamo, è una lavanda, è una doccia, è una pulizia, è un bucato che rinnova tutto la vita nostra. Quando questi camionisti tornano a casa, che hanno respirato smog per ore e ore, hanno la pelle che è nera come quella di un africano, una doccia, oh come si rivive. La confessione, consideratela, questa doccia spirituale dalla quale si viene fuori rifatti a nuovo. Non ci chiede niente il sacerdote, neanche 100 lire. La Chiesa non vuole. Il sacramento della confessione va offerto gratuitamente, sempre. Vengano di giorno, vengano di notte. Sempre. Sempre. Avere il confessore a portata di mano. È vero, oggettivamente parlando, si può andare a cercarlo in capo al mondo. E piuttosto di confessarsi male, vai a cercarlo anche a Lourdes. Ma è sempre possibile cercare un confessore in capo al mondo? Ci può sempre essere la macchina, l'aereo pronto? No, alla portata di mano. La confessione tira su. C'è un dolcetto, vero, che si chiama tirami su. Tirami su. Per me la confessione è il tirami su fino a stamattina. Oh, che bello. La confessione è il primo segreto, almeno come l'ho sperimentato io e fatto sperimentare a molti. La confessione fatta bene, e si può farla bene anche in soli 3 minuti, tira su e diventa facile essere santi. Quel Don Bosco che ai suoi birichini diceva Gesù vuole che vi facciate santi, ha insegnato subito il segreto: confessatevi spesso e volentieri. E lui si prestava fino a cadere di sonno, addormentato con la testa appoggiata al braccio del penitente, il quale stava fermo perché Don Bosco dormisse ancora un pochino. Il penitente in ginocchio, Don Bosco seduto con la testa sul braccio del penitente, il quale zitto zitto perché Don Bosco potesse riposare qualche minuto. Quanto ha confessato Don Bosco insegnando ai suoi piccoli manigoldi che usando bene della confessione si può diventare da così a così, dalla notte al giorno, dalla morte alla vita, dalla cattiva condotta alla condotta dei santi.